Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 6. Nel cervello della bestia. Il suono della risacca e l'odore del mare. I grossi massi di arenaria caduti dal colle, erosi e smussati, sparsi sulla spiaggia come grasse foche di sabbia. I cubi di granito che formavano la scogliera grigia, ammassati l'uno sull'altro in fila, geometrici, faccia a faccia con il mare. A nord la città, stretta tra l'acqua e le alture, si arrestava di colpo. Terminava in un paesaggio aspro e solitario, un velleitario baluardo contro l'inarrestabile appetito del mare, uno dei rifugi di Drago. Solo i gabbiani potevano udire i suoi soliloqui e rispondergli a tono. Il meticoloso saltava da uno scoglio all'altro tenendosi in equilibrio con le braccia aperte ad ala di gabbiano e parlava ad alta voce. Ogni balzo una frase. Coglione, stupido, coglione, stupido, coglione di merda. Non capisce, non vuole capire, gli piace fare il pupazzo. Coglione come tutti gli altri. Sì, se lo merita. Vedrete, tutti. Sarà il primo Reich della nuova terra. Umano, ma Reich. Non si può riformare il marcio. Bisogna estirparlo dalle menti. Un ordine nuovo, il mio. Balzò su uno scoglio bagnato dall'acqua e si fermò a fissare i piccoli granchi bianchi che, spaventati dalla sua ombra, si rifugiavano sotto la sabbia. Hanno bisogno di essere rieducati. Cosa c'è di male? Che alternativa avete, stronzi, massa di pecore decerebrate? Vi meritate di essere manipolati, e allora meglio che sia io invece di quelli che ci tocca votare. Almeno io vi farò vivere felici. La sua risata si fuse con lo stridio di un gabbiano che, poco lontano, lo osservava. Aveva due macchie nere simmetriche sulle ali e una sulla coda. Drago vide il disegno di un teschio che lo fissava. Vacillò solo per un attimo, prima di saltare sulla superficie piatta della sabbia. «Ve li faccio vedere io i profeti, i dogmi, i libri sacri!» Raccolse alcuni ciottoli. Ce n'era uno tondeggiante, rossiccio con dei bitorzoli grigio-blu. Lo fece ballonzolare nel palmo della mano. La sensazione di pesantezza lo rassicurava, un piccolo pianeta nel suo pugno. «Bastardi ipocriti! Questa volta non avrete scelta!» Ringhiò guardando l'orizzonte. Scagliò il sasso più lontano che poteva. Fece un gran bel suono cadendo in acqua. «Miseri, patetici, degradati, violenti!» L'ombra del colle si allungava sul litorale mentre la luce del sole si andava ritirando verso il mare. Lasciava gli scogli liberi di mostrare i colori dell'oscurità. Drago sentì la rabbia che iniziava a compiere una rivoluzione attorno alla sua coscienza. La luce del tramonto. Salì su uno scoglio e riprese la sua filastrocca a balzi. La valanga è iniziata. Il sasso diventerà una montagna. Vi aprirà gli occhi prima di seppellirvi. Ma questa volta gli ultimi saranno i primi, per davvero. Scorse una piccola barca di pescatori che si avvicinava. Discendeva borbottando lungo la costa diretta al porto. Per un attimo provò invidia per quelle vite semplici. La questione lo aveva dilaniato a lungo, quando da bambino cercava di capire chi era. Era meglio vivere a occhi aperti, inevitabile preda cosciente della miseria umana, o al contrario condurre una vita di accettazione del fatto che si vive nel migliore dei mondi possibili, e quel che è, è. Accettare il proprio fato nel bene e nel male? Infine aveva trovato la risposta. Lui era quello che era, e quello doveva diventare. Si volse indietro. Aveva camminato più di quanto pensasse. Saltò in acqua. «Ehi, della barca!» Bagnato fino alla cintola, agitava le braccia sopra la testa come un Robinson Crusoe dopo anni di pesce crudo e solitudine. «Ho bisogno di un passaggio!»